Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. La corsa a mettere in commercio automobili a guida autonoma registra ormai un continuo accavallarsi di notizie, ultima quella dell'accordo tra FCA e Google. L'innovazione non sempre procede per gradi, a volte si arresta, ma invece a volte avanza per strappi con improvvise accelerazioni. E mi pare sia proprio questo il caso delle self-driving car. Le prime auto in grado di guidare da sole in autostrada stanno già per iniziare a circolare. Il loro numero poi crescerà rapidamente negli anni successivi, visto che se ne prevede un larghissimo impiego, per esempio nei servizi di car sharing. Alcuni benefici delle self-driving car si vedranno da subito, meno incidenti per esempio, per altri bisognerà invece aspettare il giorno in cui tutte le auto saranno capaci di guida autonoma. Allora sarà possibile per esempio abolire i semafori agli incroci. È una possibilità di cui si parla da tempo per la verità, che però ha trovato una definizione più precisa in uno studio congiunto del MIT, del CNR di Pisa e dello Swiss Institute of Technology in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Enel. Ce ne parla Paolo Santi, che è ricercatore sia dell'IIT CNR di Pisa sia del Sensible City Lab del MIT. Buonasera Santi. Buonasera Maurizio. Allora, per cominciare, forse possiamo dire che voi vi siete ispirati agli aerei per gestire e risolvere un problema che riguardava i cavalli. È così, vero? Sì, esattamente. Allora, riguardare i cavalli, perché curiosamente i semafori sono in realtà stati inventati a Londra alla fine dell'Ottocento per gestire il traffico delle carrozze, perché c'era già il problema del congestionamento del traffico con le carrozze. E noi ci siamo chiesti se questo sistema sia sempre attuale in vista dell'arrivo, come stavi dicendo te, delle auto self-driving. E la nostra risposta, la risposta del nostro studio alla fine in una parola sola è no, perché un sistema come quello che abbiamo progettato, basato sull'idea di utilizzare degli slot temporali per permettere ad ogni singola auto di attraversare l'incrocio al momento giusto, riescono a migliorare notevolmente le prestazioni dell'incrocio. Ecco, dicevamo slot, questa logica degli slot, cioè io assegno ad un veicolo uno spazio temporale entro il quale appunto attraversare l'incrocio, è figlio di quanto si fa negli aeroporti, dicevamo, per questo gli aerei. Esattamente, quindi anche gli aerei arrivano esattamente alla pista quando devono arrivare. E l'idea è la stessa, devono abbandonarla entro un certo tempo, esattamente. In questo sistema funziona esattamente nello stesso modo: quando un'auto si avvicina all'incrocio richiede uno slot per attraversare l'incrocio, che viene assegnato in maniera personalizzata per l'auto, e uno dei grossi vantaggi è che l'auto arriva all'incrocio esattamente al momento giusto e non ha bisogno di fermarsi e ripartire come avviene, o di rallentare per esempio. E tutto ciò avviene in condizioni di perfetta sicurezza, perché il sistema che abbiamo studiato e realizzato parte proprio dalle condizioni di sicurezza che devono essere rispettate e sono messe in confronto con le stesse condizioni di sicurezza per il sistema a semaforo, in modo da poter capire se a parità di condizioni di sicurezza il sistema slot è più conveniente o meno rispetto al sistema a semaforo. Ecco, voi avete fatto una valutazione precisa da questo punto di vista. Diciamo, qual è il volume di traffico che potrebbe reggere un incrocio regolato con questo vostro algoritmo rispetto ad un incrocio semaforico tradizionale? In una parola, il doppio. Quindi okay. La capacità, che sarebbe il numero di auto per secondo che l'incrocio è in grado di gestire, raddoppierebbe. Si spera non il numero di automobili per strada, che non è certo l'obiettivo, ecco, ci tenevate a precisarlo, della vostra ricerca. Non è raddoppiare le auto, ma raddoppiare la velocità con cui queste riescono a superare, insomma, gli incroci. Esatto, e questo significa nei fatti eliminare le code, perché le code si formano quando il volume del traffico si avvicina alla capacità dell'incrocio. Che fa da collo di bottiglia, letteralmente, in questo caso. Quindi noi allarghiamo il collo della bottiglia. Ecco, la cosa importante di questo vostro studio è che tutte queste idee c'erano in termini così, diciamo, generali. Quello che voi avete fatto è con uno studio molto accurato, in cui per esempio tenevate conto della possibile lunghezza delle varie automobili. Avete fatto delle simulazioni, credo, da questo punto di vista, no? Sì, esatto, abbiamo messo su un modello e un sistema che ci permette di valutare anche l'effetto della lunghezza dei veicoli, della geometria dell'incrocio, quindi se è ampio o stretto, sulle prestazioni del semaforo, del sistema a semaforo, e sulle prestazioni del sistema slot, per capire, ad esempio, per dirlo in parole brevi, è più conveniente avere veicoli corti e incroci piccoli piuttosto che veicoli lunghi ed incroci larghi. Senta, di recente, concludiamo con questo, si sono diffuse molto le rotonde al posto degli incroci semaforici un po' dappertutto in giro per l'Italia, molto per esempio dalle parti dove abito io. E non è che poi uno si domanda, tutta sta tecnologia e bastava una rotonda? Sì, teniamo conto però che la rotonda ha dei limiti ben precisi. Uno di natura proprio fisica, nel senso che ci vuole uno spazio adeguato per una rotonda. E inoltre un'altra caratteristica della rotonda è che funziona molto bene per gestire volumi di traffico medio-bassi, perché non si arriva a quella che sarebbe una situazione di stallo in cui tutti i veicoli affluiscono nella rotonda e poi non riescono ad uscire. Ecco, diciamo così che le rotonde snelliscono il traffico rispetto ad un incrocio quando questo è un traffico medio, ma se si incasina una rotonda è veramente un incubo, non si muove più niente perché non c'è più niente che è in grado di sbloccare la situazione, di regolare. Esatto. Va bene, grazie Paolo Santi. Arrivederci a tutti e grazie a te Maurizio. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.